cartellone di Elisabetta Fiorito. Si fa, ma non si dice. Si fa, ma non si dice. E chi l'ha fatto tace, lo nega e fa il mendace e non ti dice mai la verità. Si fa, ma non si dice. Si fa, poi si rifà. Però nessuno lo dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa, si fa, si fa. Si fa, ma non si dice, cioè si vince il premio Eti come attore non protagonista, un uomo con un ruolo femminile. Buongiorno Gennaro Cannavacciuolo. Buongiorno a te Elisabetta. Buongiorno. E buongiorno Geppi Gliesis, nuovo direttore del Teatro Quirino. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo messo insieme due matador del teatro napoletano, ma insomma napoletano nel senso che sono due napoletani ma recitano in lingua italiana, Gennaro Cannavacciuolo e Geppi Gliesis, perché sono uniti da questo spettacolo che è appunto Ditegli sempre di sì, dove Gennaro recita in un ruolo femminile, quello di Teresa, mentre Geppi, che è anche il regista, recita il ruolo di Michele, che fu di Edoardo De Filippo, una commedia del 1927. Mi sembra che ci siamo. Allora, Gennaro, che sensazione hai avuto vincendo questo premio in un ruolo femminile? Tutte le attrici ora ti odiano. Sono molto felice, le attrici mi odiano, ma l'importante è che non mi odi il mio capocomico, che è Geppi, poi mio fratello nella scena. Comunque sono veramente molto, molto contento, perché non sembra, ma un premio come questo ti cambia qualcosa. E credo che Geppi in questi ultimi anni, anche per la mia carriera, sia stato abbastanza determinante, perché tramite lui, non lo so direttamente, adesso non lo so, ma comunque lui in qualche maniera, in un certo qual senso, sta cambiando la mia carriera, cioè sta collaborando molto alla mia carriera, ecco, quindi grazie. Geppi, perché l'idea di avere un uomo che faceva il ruolo di Teresa? Come è venuta? Questo personaggio di donna è molto speculare al fratello, poi un personaggio di donna che, come dicevi tu, era interpretato da Titina De Filippo. Erano veramente lo specchio l'uno dell'altro, perché se è vero che Michele è un vero pazzo, uno dei pochi pazzi che io conosca come protagonisti di una commedia vera e propria, in genere la pazzia viene usata come finzione o come strumento, in questo caso il pazzo è il pazzo vero. È anche vero che la sorella qualche rotella sdentata ce l'ha, come diceva lo stesso Edoardo, un po' pazza pure lei, è una donna praticamente asessuata che vive per alla ricerca della gioia del marito. Io ho chiesto a Gennaro di farne un'interpretazione alla Alec Guinness, cioè di non fare, di non interpretare il ruolo come un travestito o come si fanno in genere le donne, quindi caricando, ma di essere asciuttissimo. Gennaro è un grande attore, è riuscito a fare perfettamente quello che io volevo, tanto bene che ha vinto il cosiddetto Oscar del teatro, i premi Eti Olimpici, ma merita questo ed altro. Allora, sentiamo un pezzettino proprio del brano recitato da Gennaro e poi da tuo figlio, che interpreta il ruolo dell'attore, no? Di Strada, di questo fantasista, di Luigi Strada. Strada. Sentiamo. Scusate, Don Giovanni, io non ti avrei disturbato, ma l'inquilino del secondo piano si lamenta perché dice che il tubo dell'acqua si è rotto e ha bagnato tutto il muro. Venite a vedere, fogato un po' per questa parte. Strada? Sì, sì, il poeta Strada. Beh, pensate che pure io ho studiato medicina. Sì? Papà era medico, io ho studiato fino al secondo anno. Ah, siete medico? Sì e no. Lasciai la medicina con teatro. Ci scusiamo sempre un po' dell'audio che saccheggiamo da internet. Allora, intanto diciamo che Gennaro Cannavacciuolo insieme a Rosaria De Cicco aprirà la stagione del Quirino martedì prossimo alle ore 21 con 900 Napoletano. E poi Geppi è il nuovo direttore appunto del Teatro Quirino, è un altro incarico per te. Quanti teatri dirigi in Italia, no? Perché oramai non li contiamo più. Quanti incarichi ho avuto, o meglio, quanti incarichi mi sono dato, perché in questo caso io diciamo che rischio in prima persona. Io qua più che il direttore sono il presidente, l'amministratore unico della società e anche il responsabile artistico. E devo dire che il Quirino è un teatro completamente rivoluzionato, messo a soqquadro da un progetto folle, da una rivoluzione pacifica che sta andando in porto splendidamente. Abbiamo 1000 abbonati in più dell'anno scorso. che quando noi non gestivamo il teatro, un cartellone meraviglioso, tante sezioni, una sezione che si chiama Revolution, che è appunto che riguarda la sperimentazione, poi gli eventi, poi il teatro per i ragazzi, poi l'autogestito e poi la grande stagione che viene inaugurata adesso da gennaio, che troverà un teatro, lui già l'ha visto naturalmente, ma troverà un teatro in cui si può mangiare tutto il giorno dalle 10 alle 24, ascoltare musica gratuitamente, leggere libri, c'è una biblioteca, una videoteca, si ascolta musica in vinile, un grande teatro europeo, del resto il Quirino credo che sia il primo teatro di Roma, lo è certamente per numero di spettatori del suo segmento, cioè sopra i 900 posti, tra i 900 e i 1000 posti, e il teatro in cui ha recitato per l'ultima volta Edoardo a Roma, quindi come vedi le ricorrenze sono tante, le coincidenze non sono mai casuali, non sono mai coincidenze vere e proprie, ma nascondono una motivazione precisa, il teatro di Petrolini, di Salvo Randone, di Tino Buazzelli e chi più ne ha più ne metta, di Carmelo Bene, insomma è una grande soddisfazione. E i teatri che dirigo in questo momento direttamente, se te li devo dire tutti, sono 4, e cioè l'Apollo di Crotone, che è la nostra sede, Teatro Garden di Cosenza, Rende Cosenza, il bellissimo Teatro Cilea di Reggio Calabria e il Fiore all'Occhiello del Quirino. Insomma, Geppi, in bocca al lupo per questa nuova stagione e Gennaro, allora, in scena martedì debutti con Rosaria, De Cicco. Con Rosaria, con Novecento Napoletano, una compagnia di appena 60 persone, compresa orchestra e banda musicale della città di Acerra. E quindi speriamo che vada, insomma, spero vada tutto bene, anche perché, insomma, come buon auspicio per l'inizio di una nuova direzione, quale quella di Geppi, ecco, insomma, mi farebbe piacere fargli anche io un regalo. Allora, ringrazio Gennaro Cannavacciuolo, ricordo, vincitore del premio ETI come attore non protagonista con un ruolo femminile in scena al Quirino di Roma con 900 Napoletano, e ringrazio anche Geppi Gliesias, che abbiamo sentito, il nuovo direttore, produttore, amministratore del Teatro Quirino, ma dirige anche moltissimi altri teatri. E allora noi vi lasciamo proprio con Edoardo, che faceva il ruolo di Michele, che poi in scena è stato quello di Geppi. Ulula il vento, dorme il custode ignaro, dorme nella sua tomba di cemento. Chi è? Chi vedo? Pallido e disfatto, si incammina ed avanza Sergio Proculo. Chi è Sergio Stanco? Proculo? È un signore che entra nel cimitero. Un antico romano. Che antico romano? Niente affatto, è un signore qualunque. E si chiama Sergio Proculo. Sentite, io mi chiamo Strada, voi vi chiamate Murri e questo signore si chiama Proculo. Fatemi andare avanti, per favore. Sì. Ma ci deve essere un motivo. Ma non c'è nessun motivo, si chiama Proculo. È un nome particolare. Sì, signore, è un nome particolare. Non è che è un nome facile da dire. Murri è facile, Strada è facile. Mette Proculo. Fatemi andare avanti. Ci deve essere una ragione. Dunque, chi è? Chi vedo? Pallido e disfatto, si incammina ed avanza Sergio Proculo. Cartellone. Poi ho avuto un sussulto quando, leggendo il giornale, mi sono visto arrestato Previti. Era suo fratello. Hanno sbagliato, ma c'è quello lì giusto. Previti con quella bella struttura che ha, che sembra il gatto silvestro, con questi due occhi tremendo, con quella bella grinta. Prendi lui, no? No signore, il fratello, che non so chi. Ma anche a Milano ho sbagliato di fratello. L'avete riconosciuto, è con noi il premio Nobel Dario Fo oggi, e in questa satira di qualche anno fa indirizzata a Previti, a Berlusconi, invece al piccolo di Milano non ci sarà tanta satira, o almeno speriamo invece che ci sia, però ci sarà un affresco di Sant'Ambrogio. Buongiorno Dario Fo. Buongiorno, buongiorno, eccomi qua, se c'è vicino a me anche Franca. Ecco, Franca Rame, la sua compagna di una vita, anche sul palcoscenico, questa volta insieme al piccolo, di nuovo. Ecco, che cosa volete raccontare di Sant'Ambrogio, questo vescovo di Milano, di cui poco si sa nel resto d'Italia? Ecco, a parte... si sa non soltanto, ma quel poco che si sa è mistificato, molte volte è stato censurato, oppure edulcorato, montato, pompato, come si fa sempre quello che sta. Chi era Sant'Ambrogio allora? era un uomo straordinario, di grandissima cultura, molte volte ci sorprende appena lo conosciamo un pochettino con certe posizioni che sono neanche tanto corrette, alcune volte è veramente drastico, prepotente, mancante assolutamente così di dialettica o di senso della logica, imprevedibile, insomma, come si dice normalmente. E soprattutto lo vediamo coraggioso, un uomo che ci sorprende per certe sue posizioni a proposito della politica, a proposito del modo di concepire gli aiuti a coloro che provengono da altri territori, che non hanno la fortuna di essere nati sul suolo italico, ma nello stesso tempo hanno bisogno di essere aiutati, poveri, disgraziati, anche quelli così tenuti in disparte perché non sono accettabili per una questione di colore di pelle. E certe cose straordinarie che avvenivano allora, in questo momento, soprattutto in Italia, ci sorprendono, insomma. Noi ci pensiamo di così popolo di un livello alto, soprattutto democraticamente parlando, e invece siamo allo sotto zero. Quindi lei dice che Sant'Ambrogio in pratica è stato un rivoluzionario, è questo il suo messaggio? In certi casi è stato un rivoluzionario, in certi casi invece è un reazionario ed è brutale, ma è importante leggere e conoscere anche i lati negativi di un personaggio, perché non è che questo lo fa diminuire, molte volte lo fa crescere perché senti che difficoltà ha a rimontare e a ritrovare un equilibrio, un modo di essere umano in un mondo che è come quello di allora e come quello di oggi spesso è purtroppo disumano. Sì. Franca Rame, lei passa dal palcoscenico di Palazzo Madama di nuovo al palcoscenico del Piccolo, qual è che preferisce di più? Per fortuna è quello che preferisco. Dopo 20 mesi di vita spesa inutilmente sono ritornata a fare la mia professione, mi fa da grande felicità anche il fatto di recitare un'altra volta con Dario, che sono, è un po' di tempo che non si lavora insieme. E poi questi personaggi sono molto interessanti, la Giustina, l'imperatrice Giustina, poi abbiamo la Lenona, sono vari personaggi, e poi faccio Spicheraggio, e poi la madre di Sant'Ambrogio, cioè è una bella storia, una storia che a Milano in pochissimi la conoscono, la storia di Sant'Ambrogio, quindi è importante portarlo al pubblico. Andiamo in scena il 6 di ottobre in prova generale, e poi ci sono soltanto repliche fino all'11 di ottobre. Parlare di Dario Fo a teatro vuol dire anche però parlare di politica, a parte l'esperienza appunto di Franca Rame a Palazzo Madama. Ha sentito suo marito e ha detto sì, attenzione al razzismo, quindi anche in questo spettacolo si denunciano i mali della nostra società. Certamente, c'è un pezzo molto forte, molto importante, proprio su questo tema che sembra il discorso fatto oggi, per il razzismo che veramente fa paura, e quello che ci amareggia soprattutto è Milano, che era una città cosiddetta col cuore in mano, e ora è diventata una città egoista e razzista. E questo ci deve soltanto far vergogna. Dario Fo, allora uno spettacolo di denuncia, come al solito suo? Beh sì, anche di partecipazione e anche di compiacimento, perché ci sono delle cose rispetto positive rispetto a Milano, che si scoprono linguaggi, posizione, forza, coraggio, intelligenza, creatività, che sono veramente impressionanti. Questo se si pensa che sono decine di secoli fa. Lei chi interpreta? Sant'Ambrogio? Io faccio Sant'Ambrogio e altri personaggi, anche contro i personaggi in opposizione a Sant'Ambrogio. Siamo in due e recitiamo una cosa come 20-25 personaggi. Poi ci sono delle trovate che non vogliono anticipare. Ecco. Lei ha sempre criticato però i personaggi della Chiesa, no? C'era Bonifacio VIII che... Ho recitato anche San Francesco, che per me è uno dei più grandi uomini al di fuori che fosse un santo, un uomo veramente di intelligenza, di generosità, di slancio, straordinario. Quindi non è solo una denuncia. E quindi Di Ambrogio no. Ha un giudizio controverso, a quanto sento, perché San Francesco lo esalta, ovviamente lo saltiamo tutti. Ma guarda che quelli che conoscono bene la storia di Sant'Ambrogio lo sanno e lo conoscono. Oggi ho trovato due professori che sapevano che sta debuttando e dice: mi raccomando, trattalo bene, ma abbi il coraggio anche di dire dove è stato. Addirittura hanno usato la parola indegno, pensa. Franca Rame, allora che fa? Abbandona Palazzo Madama e si... Io ho abbandonato Palazzo Madama l'anno scorso, ho dato le dimissioni, credo di essere l'unica senatrice nella storia del Senato che si sia rifiutata di andare avanti a rubare i soldi allo Stato, che erano poi tantissimi, 15.000 euro al mese. Adesso però hanno messo le cose a posto, hanno aumentato di 5.000 euro. Lo stipendio di oggi di un senatore e un parlamentare sono 20.000 euro. Devo dire che con i miei denari li ho messi a posto bene, perché mi sono occupato delle vittime in Afghanistan e in Iraq di uranio, dell'uranio impoverito, sì. E quindi bene, sono contenta di esserci andata per aver fatto questo lavoro serio rispetto ai familiari, eccetera, eccetera, cosa che però abbiamo sempre fatto in tutta la nostra vita, spettacoli, in aiuto, in appoggio, fabbriche occupate, e ora riprendiamo a fare il nostro lavoro e riprenderemo a interessarci del nostro prossimo. Potremmo sintetizzare la politica fatta fuori da palazzo, ma dentro il teatro. Sì, sì, fatta in modo più serio. In modo più serio. Allora io do un grandissimo in bocca al lupo al premio Nobel Dario Fo e a sua moglie Franca Rame per questo spettacolo che, ricordiamo, è su Sant'Ambrogio, un modo per scoprire questo personaggio attraverso le parole di Dario Fo. Ambrosius, 6, 7, 9, 11 ottobre al Piccolo Teatro di Milano, un grande ritorno Dario Fo e Franca Rame. Grazie. Voi lo sapete che una persona su quattro è o sarà affetta nel corso della sua vita da un qualche disturbo mentale. Come stimato l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001. Che riguarda tutti. La Lita, la centometrista più simpatica che abbia conosciuto. Oh, ma sempre col sorriso, sempre. Lita, ti ricordi? E il mato fa ridere in piazza e pianzer in casa, scusatemi, il Veneto non è il mio dialetto, mi sono un po' sforzata per presentare questo nuovo spettacolo di Silvia Nanni, Famiglie da legare, regia di Rudy Maria Todaro. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Insomma, queste famiglie da legare sono un po' tutti quanti impazziti. Che cosa succede in spettacolo? Cosa succede sul palcoscenico? Allora, sul palcoscenico intanto ci sono solo io che racconto una storia. In realtà è una storia che è la summa di tante storie di famiglie che assistono una persona che ha una disabilità mentale. La scelta è stata questa di avere una unica storia che fosse emblematica, perché attraverso un personaggio che viene seguito in questa vicenda si arriva a capire qual è, diciamo, la situazione dei familiari che hanno in casa una persona con questo tipo di problemi. Tu hai avuto contatto con delle persone con una disabilità mentale. Abbiamo sentito nella prima parte Gennaro Cannavacciuolo che interpretava, no, in una commedia di Edoardo, Ditegli sempre di sì, che parlava di una pazzia. Quindi il teatro generalmente si occupa di questo tipo di disabilità. Perché? Ma diciamo che il mondo della follia è affascinante, perché effettivamente è una diversità che ha degli spunti incredibili, che nella normalità, quella che viene considerata normalità, non ci sono. È un mondo anche difficile, perché si affronta sempre la parte, appunto, del matto che fa ridere in piazza. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, per cui fa piangere in casa. E questo, diciamo, è stato l'intendimento dello spettacolo, di far vedere anche l'altra faccia della medaglia, ovviamente sempre con un tono ironico, non pesante, perché il tema è già serio di per sé. Famiglie dalle gare, tu chi sei, chi rappresenti? Visto che sei te solo sul palcoscenico, sei solo tu, sei la protagonista, sei il pazzo, chi sei? La scelta è stata quella di avere una narratrice che viene coinvolta in questa storia, ma parte da esterna. Quindi è un'amica della figlia della persona che ha i disturbi mentali. E attraverso gli occhi di questa persona che si avvicina dall'esterno a queste vicende, il pubblico viene accompagnato a conoscere appunto tutte le vicende. Insomma, ricordiamo allora Famiglie da Legare all'auditorium di Favaro Veneto, esatto, in provincia di Venezia, via Gobbi 19, ore 21 questa sera, un modo per avvicinarsi alla disabilità ma anche al teatro giovane, al teatro un po' sperimentale che Silvia Nanni fa insieme a Rudy Maria Todaro, un teatro veneto ma diciamo internazionale, potremmo dire così? Sì, direi di sì. Beh, mi sento di poter dire così. Allora, Famiglie dalle Gare, ricordiamo, Favaro Veneto, ore 21. Cartellone. Von Karajan scatenato nel Dies Irae del Requiem di Verdi ci introduce a una rassegna oramai storica, direi, perché noi andiamo proprio a Parma, dove per tutto il mese di ottobre è iniziato il primo, ma insomma continuerà fino al 27 di ottobre il grande festival di Verdi. Allora, salutiamo il direttore artistico Mauro Meli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi Parma diventa un po' la sede di questo grandissimo compositore, fa gli onori di casa al grande compositore e accoglie tutte le manifestazioni in onore del grande compositore Verdi. Certo, Parma e Busseto sono i luoghi di Verdi, sono le terre di Verdi, si chiamano proprio terre verdiane. E che cosa avete intenzione? Aprite con il Requiem. Abbiamo aperto con la messa dal Requiem due giorni fa, il primo, e stasera c'è la seconda replica, diciamo la messa dal Requiem diretta da Lori Mansen con un quartetto di eccezione, sono Svetla Vassileva, Daniela Barcellona, Francesco Meli e Alexander Vinogradov, con naturalmente la nostra orchestra e il nostro coro. E ieri abbiamo fatto la prima dei due Foscari, anche qui con un cast d'eccezione, direttore Donato Renzetti, e protagonisti sono Leonucci, Tatiana Serjan e Roberto De Biasio. Chiaramente è un'occasione anche per vedere la casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto, no? Dove il grande compositore nacque nel 1813. Ma insomma, il Requiem è sempre un po' il momento magico, ma c'è sempre questa rivalità tra il Requiem di Mozart e il Requiem di Verdi? Non lo so, diciamo che sono due tra le composizioni più straordinarie composte dall'uomo, dai compositori in tutta la storia della musica, ecco, sono due cose che non dovrebbero essere rivali, ma abbinate proprio al più alto frutto del genio umano, ecco. E poi invece proseguite con i due Foscari al Teatro Comunale Luciano Pavarotti, no? Già venerdì, ieri avete iniziato, poi c'è l'8, l'11, dunque, il 13. Ieri, Ieri abbiamo fatto la prima al Teatro Regio di Parma. Ci sono, come altri anni abbiamo fatto, 5 recite al Teatro Regio di Parma e poi si va al Teatro Luciano Pavarotti di Modena. Modena è una città amica, è una città che fa parte delle Terre Verdiane, è un teatro magnifico, una città stupenda. Diciamo, ma l'attività del Festival Verdi è molto collegata al territorio, a queste terre, a Busseto, a Fidenza, a Reggio Emilia, e non solo ai teatri, ma anche ai castelli, alle rocche, ai posti, ai musei, perché il festival è un festival non solo per le orecchie, ma anche per gli occhi, è pieno di, abbiamo fatto un sacco di mostre, esposizioni, presentazioni di libri. E poi è legato il festival al palato, nel senso che queste sono le terre di Verdi e le terre di Verdi sono celebri anche per i prodotti alimentari. Bisogna dire, qui la fantasia e la realtà si incrociano continuamente in suggestioni, voglio dire, culinarie formidabili, ecco. E ricordiamo appunto anche quello che diceva lei, Mauro Meli, il direttore artistico del Festival Verdi, perché molti parmigiani, gli abitanti di Parma, non le forme di parmigiano che pure ci piacciono tanto e che sono prodotte in zona, sono un po' sfidati e hanno messo la famosa tuba di Verdi, un omaggio al grande maestro, no? All'interno di Casa Verdi, sotto il municipio di Parma. Abbiamo detto allora il Festival Verdi, questa sera di nuovo nella cattedrale la messa da Requiem, ma poi abbiamo detto che ci sarà i due Foscari nel Teatro Comunale di Luciano Pavarotti e poi tanti gli appuntamenti, il Nabucco al Teatro Reggio di Parma il 12, il 14, il 18, il 24, il 28, insomma basta adesso mettersi su internet e fare www.festivalverdi.it, anzi teatroreggiodiparma.org, per scoprire tutti quanti gli appuntamenti. E allora vogliamo un attimo ascoltare, ringraziando il direttore artistico Mauro Meli, un omaggio di Luciano Pavarotti proprio tratto da I due Foscari. Vent'anni fa crollava il muro di Berlino, vent'anni fa una notte storica tra l'8 e il 9 novembre 1989, vent'anni fa un ricordo in una mostra a Torino. Ma intanto andiamo un attimo indietro nel tempo, a quella notte. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Vent'anni fa, quindi, crollava il muro di Berlino. 2 ottobre, 9 novembre 2009, alla Sala Bolaffi a Torino. Berlino, la libertà oltre il muro, inaugurazione giovedì scorso alle 18.30 per arrivare proprio a quel momento e festeggiare così il ventennale. Abbiamo qui con noi a Cartellone oggi Uliano Lucas, il curatore della mostra. Buongiorno Lucas, che cosa c'è in questa mostra, che cosa si vede? Sono 74 immagini praticamente tratte dagli archivi di due agenzie di fotografiche berlinesi, che quei fotografi per 30 anni hanno seguito praticamente, guardando, osservando, scattando, hanno fotografato praticamente quello che accadeva intorno al muro. Dalla costruzione praticamente, i primi mattoni, no, e il filo spinato, a via via praticamente il dramma sempre più forte, legato poi a questi enormi cementi armati che praticamente hanno sovrastato, diviso praticamente la città. ci ha dato le fotografie celebri degli anni 60-70 del muro, quelle che a un certo momento hanno circolato e ci hanno dato una coscienza, circolato sulla stampa sia quotidiana che settimanale, tutto in un bianco e nero, per poi arrivare praticamente a raccontare in quei 10 giorni praticamente tutto a colori, quei 10 giorni, l'evolversi della situazione e alla fine la caduta del muro. Ricordiamo che in occasione della mostra Alinari 24 ore pubblicherà un catalogo corredato da immagini a colori e con il testo in lingua italiana ed inglese. Una notte, diciamo, magica, perché poi ci fu questa rivoluzione di velluto. Ricordiamo tutti queste immagini con i Vopos, la famosa polizia terribile della DDR che lasciava invece passare le persone dall'altra parte della città. Sì, a un certo momento, beh, devo dire che c'era già stato praticamente un mese prima l'Ungheria che aveva permesso di far passare i cittadini della DDR che volevano andarsene in Austria. Fu praticamente il primo passaggio, la prima storia reale. Certo che in quella notte praticamente chi dirigeva il traffico, chi controllava i passaporti e altri, aveva capito che ormai c'era più nulla da fare anche di fronte alle dichiarazioni di un ministro, e aprì, e a un certo momento i berlinesi uscirono per andare a vedere dall'altra parte, ma soprattutto per andare a curiosare, a guardare e a vivere dall'altra parte. E fu un flusso ininterrotto che queste fotografie praticamente di questi umili cronisti della cronaca raccontano e ci danno proprio, ci rimandano a quei momenti di angoscia, felicità, gioia, di questa fiumana di automobili scassate loro, di questa gente che a un certo momento scopre praticamente la libertà, ma scopre anche, e dice una serie di fotografie, il consumismo finalmente, ed è una foto emblematica quella di un grande camion della Coca-Cola che regala a un certo momento la bibita a tutti quanti. Ricordiamo allora 2 ottobre, 9 novembre 2009, in occasione del ventennale del crollo del muro di Berlino, La libertà oltre il muro, una mostra a cura di Uliano Lucas in sala Bolaffi a Torino. E da poco si sono aperti anche i palazzi dei forzieri, i palazzi delle banche, i palazzi storici. Un invito a palazzo dalle 10 di questa mattina fino alle 19 in tutta Italia, l'ABI, l'Associazione Bancari Italiani, ha aperto tutti quanti i palazzi. Abbiamo con noi Guido Palamenghi Crispi, buongiorno, responsabile relazioni culturali dell'ABI. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Che cosa succede? Aprite i forzieri? No, aprite i palazzi storici però. Apriamo dei forzieri di arte e di cultura, perché le cose da conservare, da salvare, da salvaguardare sono anche queste, le nostre tradizioni, le nostre radici, che sono il nostro passato e sono e saranno il nostro futuro. Quanti palazzi sono aperti oggi in tutta Italia? Oggi abbiamo aperto 93 palazzi in 43 città. Sono palazzi che vanno dall'antichità, dal Medioevo, sino ai tempi contemporanei. C'è Pierluigi Nervi e Renzo Piano, che sono gli autori di 2 palazzi. Quindi siamo nella piena modernità, nella piena contemporaneità, non solo nei palazzi, ma anche nelle opere d'arte. Ci sono anche delle novità ad Abbiate Grasso e Modena? Sì, sono 2 città che si affacciano per la prima volta. A Abbiate Grasso c'è una casa Orsini, quindi una famiglia romana, un possedimento di questa famiglia che era lì e che il Monte dei Paschi ha acquistato, ristrutturato e riportato ai suoi splendori. E Modena che entra alla grande con ben 4 differenti palazzi di 2 banche, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e il Banco di San Prospero e San Gimignano. Ma l'Associazione Bancaria Italiana vuole con questa iniziativa venire incontro anche un po' ai cittadini, perché le banche sono sempre considerate un po' i cattivi, no? Nel nostro immaginario. Invece qui si aprono dei palazzi d'arte. Si aprono dei palazzi d'arte per dimostrare che le banche sono anche positive, noi diciamo sono positive perché anche il loro ruolo di propulsione all'economia è importante. In questo caso le banche si aprono gratuitamente a tutti, quindi non bisogna essere correntisti, basta essere interessati all'arte e alla cultura e vogliono dimostrare una funzione sociale. Per chi volesse saperne di più basta visitare il sito dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiani, www.abi.it, cliccare sull'icona invito a palazzo, sabato 3 ottobre, arte e storia nelle banche. Ringraziamo quindi Guido Palamenghi Crispi, responsabile relazione culturale dell'ABI, per questo invito a palazzo dalle 10 di questa mattina fino alle 19 di questa sera. Cartellone. E ritorniamo a Roma, perché questa sera c'è un evento importantissimo in capitale, qui a Roma. La capitale apre le porte al teatro e noi speriamo che tutte le altre città italiane facciano la stessa cosa. Il 3 e il 4 ottobre torna proprio la festa dei teatri, a teatro gratis o con 2 euro. 50 teatri romani aderiscono all'iniziativa e noi siamo andati a cercare qualcosa di particolare. L'abbiamo subito trovato al Teatro India di Roma. Questa sera debutta uno spettacolo molto importante dal punto di vista di teatro civile, come si dice in gergo, una pièce sulla violenza domestica, composta però attraverso l'unione di varie opere di Pirandello, pensate, e un'unione che è stata un po' cercata e trovata da un grandissimo romanziere, Andrea Camilleri. In scena Sandra Tofalatti e Alvia Reale. Sandra Tofalatti, una pièce abbastanza importante. Buongiorno. Buongiorno. In realtà il nostro gruppo, noi siamo in quattro, c'è, oltre a me Sandra Tofalatti, Alvia Reale, c'è Emanuela Mandracchia e Maria Angeles Torres. Siamo quattro attrici e siamo anche le registe e le drammaturghe, diciamo, di questo spettacolo, insieme poi a altri due attori uomini, non dimentichiamoli, sono Diego Ribon e Fabio Coccifoglia. Quindi Pirandello 100 anni fa già si era occupato di questo problema, che purtroppo non è stato sconfitto, anzi sì, come no. Diciamo che Pirandello ha indagato moltissimo la violenza all'interno della famiglia, cioè non c'è testo di Pirandello che non parli in qualche modo delle dinamiche violente all'interno della famiglia e dell'ipocrisia con cui la famiglia chiude e nasconde questa violenza. Alvia Reale, che personaggio interpreti? Io sono la madre e il nostro testo, appunto prendendo spunto da tutti questi testi di Pirandello con l'aiuto di Andrea Camilleri, come hai giustamente ricordato tu, in realtà è un testo scritto, cioè è una storia, diciamo così, nuova, quindi chi conosce Pirandello potrà riconoscere i testi da cui noi abbiamo preso spunto, chi non lo conosce spero possa godere di una storia nuova. La storia è la festa di un compleanno della mamma che compie 60 anni, all'interno di questa festa si svolgono appunto queste dinamiche un po' di ipocrisia, di violenze, quelle che insomma purtroppo sono anche molto attuali in questo momento, sperando però certo sempre di poter avere anche momenti di leggerezza, di ironia. In questo Camilleri c'è stato di grande aiuto, ma anche Pirandello, devo dire, già nei suoi testi c'è sempre del grottesco, ci sono sempre delle canzoni, c'è sempre una possibilità comunque di cogliere un aspetto anche più ironico di tutte le vicende che accadono, anche quelle più drammatiche. Sandra Tofalatti, com'è Camilleri? È questo personaggio un po' particolare che si vede durante le interviste, che fuma sigarette incessantemente? Beh, che fuma sigarette incessantemente direi di sì. Poi noi tutte e quattro lo conoscevamo già perché sono nostri insegnanti in anni diversi all'Accademia d'Arte Drammatica, e quando un giorno per caso l'abbiamo incontrato e gli abbiamo detto che stavamo appunto lavorando a questo progetto su Pirandello, lui subito ci ha chiesto di parlargliene e si è dimostrato molto interessato e ci ha dato subito un grande aiuto. Lui, tra l'altro, dobbiamo ricordarlo, oltre a essere siciliano dello stesso posto di Pirandello, è anche un regista teatrale, non soltanto uno scrittore, ha in scena molti Pirandelli. Noi abbiamo lavorato su quasi tutti i testi di Pirandello e abbiamo costruito questa storia autonoma partendo da più di 10 teatrali di Pirandello, dalle novelle, e quindi in qualche modo lui ci ha detto che l'operazione che stavamo facendo era molto pirandelliana. E rende l'idea. Allora ricordiamo, il 3 e il 4 ottobre torna a Roma la festa dei teatri, teatro gratis o a 2 euro, 50 teatri romani aderiscono all'iniziativa e noi speriamo che Roma sia seguita da tutte le altre città d'Italia. Ricordiamo quindi festa di famiglia questa sera al Teatro India con Sandra Tofalatti a Salvia Reale, un'unione di opere di Pirandello a cura di Andrea Camilleri, poi in debutto a Roma sempre il 5 ottobre fino al 1 novembre. In bocca al lupo e buona festa dei teatri. Noi intanto ci spostiamo in Sardegna. E dai teatri aperti di Roma noi andiamo in Sardegna, dove il teatro va in strada, sì, perché per tutto il mese di ottobre, insomma per alcuni weekend, c'è la Strada dei Sogni Festival del Teatro di Strada, e abbiamo con noi qui a Cartellone Michele Cozzia, l'organizzatore del festival. Buongiorno Michele. Buongiorno, io sono in provincia di Nuoro a Bitti. Questo festival è proprio un festival che va nell'Interland sardo, quindi non le coste. No, no, sì, è nell'entroterra sardo, sì. Quindi mangiate il porceddu oltre che ascoltare questo. Se ci riuscite, sì. Allora, molte band anche per questo teatro di strada, a quanto ho capito ci sono band di Dixie Music, no? di Dixie Jazz che vengono dalla Toscana addirittura. Sì, abbiamo delle street band, una è appunto quella dei Dixie Train, arrivano dalla Toscana. E il festival si svolge in vari weekend? Si svolge esattamente in tre weekend. Prevede la nostra, diciamo, presenza nei paesi di Siniscola, Torpè, Posada, Lodè, Onanì, Bitti, Oilula, Posidda e Urune, dove ci sarà la finale. Quindi varie street band che si incontrano e fanno vivere la musica di strada in Sardegna. Ricordiamo quindi i tre weekend, sono questi qui che stanno arrivando, giusto? Sì, sì, esatto. Da oggi fino ai due weekend successivi. Strada dei Sogni, Festival del Teatro di Strada. Ringraziamo Michele Cozzia dal entroterra sardo che invece ospita questo bellissimo festival. Grazie Michele. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Prendete il vostro taxi e andate a Firenze al Teatro Puccini, dove questa sera Fratellanza Militare, la cooperativa di tassisti fiorentini, fa un bellissimo spettacolo, un taxi per l'Abruzzo, uno spettacolo per solidarietà, di solidarietà per i terremotati dell'Abruzzo. E abbiamo sentito la magnifica voce di Joni Mitchell, che nel suo Big Yellow Taxi si sta dirigendo anche lei al Teatro Puccini di Firenze. Buongiorno a Filippo Allegri, presidente di Fratellanza Militare di Firenze. Buongiorno a voi. Allora, questo spettacolo è uno spettacolo amatoriale, però molto importante, perché è a sostegno delle popolazioni terremotate. È uno spettacolo di vari show che si alternano sul palco. Sì, esatto, sarà uno spettacolo, nonostante il tema trattato, cercheremo di fare uno spettacolo comunque divertente, varia musica, messo in piedi appunto dall'associazione che io rappresento e dalle due cooperative di taxi, la Cotafi e la Socota di Firenze, che hanno ormai da anni una loro, diciamo, compagnia teatrale. Quindi questo progetto è nato quasi per caso a luglio con una chiacchierata con loro, e questa sera appunto lo metteremo in scena al Puccini. Quante persone, quanto dura lo spettacolo? Allora, lo spettacolo ha inizio alle ore 9, diciamo, poi saranno le 9 e un quarto, ora che tutti si saranno sistemati. Il termine indicativo sarà verso la mezzanotte. Si svolgerà ovviamente con una serie anche di proiezioni e filmati, immagini e foto dei luoghi dell'Abruzzo dove c'è stato il sisma. Poi ci saranno alternate ovviamente vari racconti e testimonianze, e poi intervallati dai vari spettacoli, canti, musica e quant'altro. Tra le altre cose il costo è minimo, perché sono 10 euro per l'ingresso, e la Fiorentina, la società, la squadra di calcio di Firenze, ci ha concesso e ci ha dato due magliette autografate che domani sera verranno messe all'asta durante la serata. Insomma, un taxi per l'Abruzzo al Teatro Puccini di Firenze, ricordiamo, questa sera ore 21, un appuntamento molto importante. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Una buona giornata a tutti, un buon sabato da Elisabetta Fiorito.